anche per me. È così difficile fuggire da questo film che oramai per noi volge alla fine. Ora che so che non ci guarda nessuno, saltiamo di nascosto. La sala è vuota, lo schermo è bianco, mettiamo una croce sopra, nessun rimpianto. Sai che per me solamente tu mi fai volare, ma le ali mie hanno già sfiorato le montagne. Sai, qui non si salva nessuno. Allaccia il tuo sorriso, presto atterriamo sul mio tormento. Mettiamo una croce sopra e via nel vento. Sei felice, su coraggio ad alta voce. Per le scale che anche Dio ci possa sentire. Sei felice, senza luce, senza pace. Trattieni il tuo respiro, sei il mio rimorso, non ti ha già ucciso. Mettiamo una croce sopra, così è deciso. Prendiamoci forte.